Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, prendo spunto da un tema che nei mesi scorsi è stato oggetto di discussione alla vostra radio, ovvero la scarsa conoscenza che molti italiani hanno del film di De Sica, Umberto D., per mettere a confronto il diverso atteggiamento di italiani e statunitensi di fronte alle difficoltà. In Umberto D. di Vittorio De Sica, un mite e silenzioso pensionato ridotto a non essere più in grado di sopravvivere economicamente, rifiuta la tentazione del suicidio per non abbandonare il proprio cane. Nel film L'impareggiabile Goffrey di Gregory Lacava, un gruppo di giovani oziosi e spensierati nella Manhattan dei primi anni 30 organizza una caccia al tesoro dove si dovrà portare a casa qualcosa di insolito trovato in città. Il gruppo della protagonista Irene Bullock sceglie una baraccopoli newyorkese e compra un insolito barbone che piace alla famiglia e ne diventa maggiordomo. Quando il ricco Bullock padre subisce un catastrofico rovescio finanziario, Godfrey, barbone maggiordomo, dimostra gran senso degli affari. Aiuta il padrone a rimettere in sesto l'azienda e, arricchitosi con qualche abile speculazione in borsa, sposa Irene, la figlia del padrone. Così si scopre che Godfrey, prima della crisi del 29, era un brillante finanziere. La baraccopoli è stata solo una brutta parentesi nella vita di un americano che mai aveva smesso di riporre fiducia in se stesso e nel proprio paese. Ai teorici del neorealismo italiano, di cui Umberto D. rappresenta forse lo zenith, le storie alla Frank Capra o Gregory Lacava non piacevano molto. Apparivano favolette al lieto fine, blasfeme al cospetto del pathos drammatico ed eroico, nota dominante della poetica sovietica, che era tra le fonti di ispirazione dei nostri neorealisti. Non mi sorprenderebbe così scoprire che molti tra quelli che si scandalizzano di chi non conosce Umberto D. probabilmente non conoscono l'impareggiabile Godfrey. Non da ultimo perché la cultura italiana dominante dal dopoguerra in poi vorrebbe crescerci nel mito degli Umberto D. Un vero peccato. Avessimo una mentalità più prossima allo spirito libero di iniziativa statunitense, invece del gusto un poco Nanni Morettiano di macerarsi nell'eroismo del dramma, probabilmente non discuteremmo tutti i santi giorni sempre solo di Berlusconi, nei modi di cui i deliri del poeta Gianni D'Elia o le sviolinate di Emilio Fede sono un paradigma sconcertante. Probabilmente saremmo molto più interessati a chi potrebbe mettere mano ai problemi reali di questo paese, di molto precedenti la discesa in campo di Silvio Berlusconi, confrontandoci su idee e programmi, non su nomi e anatemi. Forse saremmo più interessati a capire se e come ci sia volontà di riformare la pubblica amministrazione, la scuola, l'università, il sistema di previdenza sociale, partendo dalle pensioni e snellire, ammodernandolo, il sistema legislativo e giudiziario. Invece no. Tutti a incarognirsi su Berlusconi. Da incarcerare o fare santo subito. Così, quando la crisi economica sarà un brutto ricordo, temo il nostro livello di crescita e benessere, paragonato a quello statunitense, sarà tristemente molto più basso. Nella nostra classe dirigente temo ci siano troppi Umberto D., senza mire ad una prospettiva migliore, ma che si crogiolano nella bellezza della sofferenza, ripagati dall'affetto di un cane a cui, di certo, Godfrey riuscirebbe a dare cibo migliore e una cuccia ben più calda e accogliente. Roberto. Ho sentito le parole dell'illustre Travaglio riguardo al caso Berlusconi. Sono rimasta molto colpita dal concetto di libertà di odio espresso dal paladino della giustizia. Dopo questo nobile concetto mi sento più serena perché più libera di odiare chiunque, extracomunitari, politici, concorrenti, chiunque la pensi diversamente da me, pregando il creatore per toglierli di mezzo. Jenny. Direttore, ne ho sentite tante, sull'odio e sulla legittimità di odiare, sul clima e sulle responsabilità dei toni delle discussioni, sui malati di mente e sulle origini dei loro gesti e della natura dei loro obiettivi, sul carisma e sull'invidia, sul fatto che ci sono persone che suscitano sentimenti contrastanti e che quindi si vanno a cercare gli effetti, positivi o negativi, dei loro comportamenti. Se discutessimo di calcio, potremmo dire che un calciatore si merita di subire un fallo se ha provocato, a parole, il proprio avversario. Benito Lorenzi, detto Veleno, era maestro nel colpire nell'intimo l'avversario affinché reagisse disordinatamente e subisse la conseguente espulsione. Furino, Benetti e Goico Cea sono rimasti nell'immaginario collettivo quali castigatori di attaccanti che, variamente, erano sottoposti alle loro cure. Ma credo che in politica nessuno si meriti un fallo cattivo e non credo che un fallo cattivo sia giustificabile in alcuna maniera e che debba essere condannato in quanto è cattivo, dato che fa trascendere la discussione, per quanto accesa, nella rissa. Credo anche che i più giovani dovrebbero ricevere il messaggio che la politica non è il calcio e che la discussione, accesa e aperta, può concludersi anche nel completo disaccordo, ma mai in un confronto fisico che veda prevalere il più forte fisicamente. Credo che non debba essere sdoganato il concetto che l'odio sia un sentimento umano e che come tale debba essere accettato. L'odio deve essere combattuto perché è per l'odio che si sono commesse le peggiori nefandezze, anche nel recente passato. Credo che la base della democrazia sia poter esprimere la propria opinione senza il timore dell'aggressione fisica, anche se l'opinione sia estrema e criticabile. Credo che non sia giusto che per paura non si esprimano più le proprie opinioni, perché perderemmo quello per cui in tanti hanno combattuto e sono morti, e che si chiamano ideali, che ci fanno vivere nella speranza che in futuro i nostri figli possano vivere senza odio, ma consci della differenza tra gli uomini e del valore aggiunto che sorge dal confronto delle idee. Monarchia e dittatura hanno lasciato il passo al sistema parlamentare e alla rappresentanza popolare. Il cittadino è maturato, cresciuto, è diventato consapevole della propria funzione all'interno della società. Vorrei non sentire più parlare della ragionevolezza di un gesto d'odio. Stefano. Il paragone tra Berlusconi e Di Pietro non si limita soltanto al tema del culto della personalità e al dirigismo, fenomeni presenti nelle rispettive formazioni politiche e nell'elettorato, ma soprattutto nella tipologia di discorso politico. Entrambi sono a mio avviso dei semplificatori, purtroppo però in senso negativo. La loro capacità comunicativa fa sì che siano estremamente efficaci, ma altrettanto superficiali nella discussione dei problemi e nel modo in cui essi vengono definiti. La loro visione del mondo e la loro visione politica è fatta o di bianchi o di neri. Ogni tipo di discorso complesso viene evitato. Il discorso si riduce a frasi e concetti semplici e diretti. Purtroppo, per fortuna, la realtà è estremamente complessa e la politica dovrebbe saper affrontare problemi complessi con la profondità e intelligenza necessarie e non riducendo tutto a slogan. Un altro punto di contatto fra i due politici è la loro incapacità di includere l'altro all'interno del proprio discorso politico. Berlusconi e il suo elettorato si occupa dei problemi di Berlusconi e della sua parte politica, promuove unicamente la sua politica e crede la propria visione del mondo e delle cose come l'unica giusta e corretta. Di Pietro e il suo elettorato, ugualmente, si occupa della linea politica dell'Italia dei valori unicamente, porta avanti le idee del partito unicamente ed è convinto che la propria visione del mondo sia l'unica giusta e corretta. Ad entrambi manca il senso e la pratica del dubbio ed entrambi sono incapaci di includere nel proprio discorso e pratica politica le idee e le esigenze diverse dalle loro. In questo senso, entrambi si rivelano, per motivi e con politiche opposte, narcisisti e infantili. Ecco perché il dialogo in questi termini è impossibile. Includere il pensiero dell'altro, per loro, significa negare la propria identità completamente. Auspico quindi l'arrivo dell'adolescenza con i suoi dubbi e i suoi timori. Chissà che le cose non migliorino per tutti. Marta. Una piccola curiosità personale sulle scorte dei politici. Sono sicuro che i vari politici, quando assumono incarichi istituzionali, abbiano sempre avuto la scorta per sicurezza personale. Da quando il nostro caro Berlusconi è entrato in politica e ha ottenuto l'incarico di primo ministro, la sua scorta è sempre stata una cosa fantastica. Vedere tutte quelle persone attorno a Berlusconi sembrava di essere in un telefilm americano. È a questo punto che nasce la mia curiosità. Visto che la scorta c'è sempre stata, indipendentemente dal clima politico, a cosa serviva se allora non c'era nessun pericolo? Se invece i pericoli ci sono sempre stati, allora cosa c'entra il clima politico di adesso? Si dice che il signor Tartaglia sia stato spinto ad agire in quel modo dal tam-tam mediatico contro Berlusconi. Ma io ho 68 anni ed è una vita che continuo a sentire piove governo ladro, indipendentemente da chi sia al governo. Che in questi momenti il clima sia un pochino strano è abbastanza vero. Io ricordo gli anni dal 68 al 70, quando chi non era d'accordo con il sindacato era automaticamente un fascista. Ora le cose sono tornate come allora. L'unica differenza è che, se non si è d'accordo con Silvio, si è automaticamente un comunista. Tornando alle scorte, non sarebbe il caso di risparmiare un bel po' di euro mandando tutte le varie scorte a fare qualcosa di più produttivo? Anche perché, come si è visto in questa occasione, il risultato per la scorta non è poi stato così brillante. Mario. Considero l'operato dell'attuale Presidente del Consiglio e del Governo in modo decisamente positivo nel suo complesso, anche se ovviamente non condivido tutto. Ma c'è un motivo per cui sarò sempre grato al Presidente: l'aver smascherato la reale natura di molti dei cosiddetti intellettuali di sinistra italiani. Ho sempre ritenuto che dietro la parvenza di buoni e umili difensori dei deboli si nascondessero arroganza, prepotenza e scarso rispetto nei confronti di chi la pensa in modo diverso. Alla richiesta di chiarimenti riguardo la loro avversione a Berlusconi, ci hanno sempre detto che loro non ne fanno una questione personale. Sono contrari alle politiche e ai programmi e si contrappongono a lui per il bene dell'Italia e del futuro degli italiani. Oggi, finalmente, scopriamo che odiano Berlusconi in modo così palese e imbarazzante che si è scomodato l'intellettuale televisivo di turno per cercare di dare una giustificazione a tale odio. Tali intellettuali sostengono che l'enorme consenso del presidente sia dovuto quasi esclusivamente al fatto che attraverso i suoi media abbia furbescamente e ingannevolmente convinto molti italiani della sua bontà rispetto ai cattivi comunisti. Provate a chiedere agli intellettuali come mai loro non si sono lasciati convincere. Vi risponderanno che loro riescono a capire cosa c'è dietro, conoscono le reali intenzioni di Berlusconi, sanno per certo che farà dei danni irreversibili. Sono in grado, meglio degli altri, a valutare le degenerazioni che ne deriveranno, eccetera. In altre parole, sono più bravi e più buoni rispetto alla massa. Ecco l'arroganza e lo scarso rispetto nei confronti di chi la pensa in modo diverso. Fabio. Cara Radio 24, ho sentito leggere la lettera di un ascoltatore che riferiva di qualcuno che in rete ipotizzava la messa in scena di un finto attentato da parte del Presidente del Consiglio. Questi, udite udite, si sarebbe portata la mano alla bocca per sporcarsela con del finto sangue, per poi far finta di essere ferito. Naturalmente tutti i presenti al fatto erano personaggi pagati dal grande corruttore per avallare il fatto, e chissà quanti milioni avrà preso il finto attentatore e quanti ne avranno presi i medici e gli infermieri del San Raffaele. Corrompere, cosa del tutto normale per un mafioso come Berlusconi, le cui ricchezze, si sa, hanno origini oscure. Mica come gli altri grandi plutocrati italiani che hanno onestamente accumulato i loro patrimoni risparmiando per anni un soldino alla volta che diligentemente mettevano nel porcellino di terracotta che poi consegnavano a fine di ogni anno trepidanti nelle mani del direttore della banca presso il quale avevano acceso il libretto di risparmio. In ogni caso, si tranquillizzino quelli che hanno scoperto il trucco. Possono stare sicuri che tra qualche giorno Berlusconi riceverà un avviso di garanzia. Qualche PM gli contesterà la simulazione di reato e certamente il falso in bilancio, perché i soldi per pagare tutti i falsi testimoni li avrà prelevati certamente dai fondi neri della Fininvest. Carlo. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un argomento che mi sembra degno di nota. Sono impressionata dal moltiplicarsi delle richieste di aiuto che si accumulano nella mia posta. Rifugiati, ammalati, affamati, homeless, bambini di strada, eccetera. Tutti mi inviano documentazioni fotografiche a colori su carta patinata o cartoline in omaggio. come fidarsi. Sono tutte onlus, ma questo quadro angosciante di un mondo disperato corrisponde veramente a una realtà spaventosa? In questo caso, lo stanziamento di somme cospicue per opere di dubbia utilità da parte dei vari governi sarebbe assoluta follia. I grattacieli sempre più alti, sempre più stravaganti e variamente ritorti. Il progetto faraonico di un ponte italiano in zona fortemente sismica, per non parlare delle missioni interplanetarie, tutto questo dà il capogiro. Veramente interessa trovare acqua su Marte, quando la Terra ne rischia una penuria crescente e in Africa bevono fango o un liquido appestato dagli idrocarburi della ricerca AGIP sul delta del Niger o si riducono alla fame per la desertificazione? Non posso essere la sola a vivere questi interrogativi angosciosi. Non si dovrebbero gridare queste denunce sulle piazze invece delle invettive di una politica da mercato rionale? Bruna, Varese. Cara Bruna, nella cassetta postale, soprattutto in questo periodo prenatalizio, arrivano richieste di aiuti finanziari da parte di associazioni, enti di ricerca, gruppi di volontariato, case di assistenza. Lei ha ragione nel sentirsi angosciata di fronte ai tanti problemi del sottosviluppo e in questa prospettiva il nostro necessariamente piccolo aiuto potrebbe sembrare un'inutile goccia nel mare. Certo, non possiamo rispondere a tutti e possiamo avere ben poca possibilità di incidere sulle grandi scelte politiche che potrebbero avviare una diversa politica per una maggiore equità e giustizia a livello mondiale. Ma non penso che sia retorica dire che un cammino è fatto anche di tanti piccoli passi. E allora va certamente bene dare un aiuto alle onlus, alle associazioni missionarie, al volontariato impegnato nel terzo mondo, ovviamente cercando di conoscere le attività e i progetti da realizzare. Usare meglio le risorse è un compito che spetta a ciascuno di noi. Fare in modo che un bambino possa sorridere è un piccolo passo, ma concreto e positivo. E allora non lasciamoci prendere dall'alibi di chi pensa che, dato che non si possono risolvere i problemi di tutti, non si debba nemmeno affrontare il disagio di qualcuno. Dai piccoli doni e dalle piccole testimonianze possono anche nascere grandi speranze di cambiamento. Ai 700.000 pendolari che ogni giorno si riversano su Milano con i propri mezzi, il vice sindaco Riccardo Decorato chiede di lasciare l'auto a casa per evitare guai maggiori vista l'imminente nevicata. Secondo me quest'uomo non si rende conto di quello che dice. E per un politico questo è grave. Capisco i milanesi che vivono in città e hanno a disposizione autobus e metro, ma non capisco l'appello per chi viene da fuori. Se solo la metà di queste persone che ogni giorno usano i mezzi propri per recarsi al lavoro decidessero unanimemente di utilizzare il treno, il caos che già è notevole sulle ferrovie lombarde diventerebbe apocalittico. Già oggi i treni che arrivano nelle stazioni milanesi dalle 7 alle 8:30 sono scatole di sardine piene di esseri umani. Per di più, con questo freddo, tutti i problemi cronici di ritardi, carrozze fuori uso e di servizi vengono ulteriormente aggravati. Se solo la metà di questa gente, dicevo, ascoltasse questo appello, il caos sarebbe completo. Ancora una volta si vede che coloro che governano, non vivendo i problemi veri, sono ben distanti da capire la realtà di chi invece li vive sulla propria pelle. Ben diverso sarebbe stato se l'appello fosse stato: con la neve state a casa. Se potete, con la neve non andate a lavorare. L'avrei capito di più. Ma chiedere a chi vive in provincia di lasciare l'auto a casa e utilizzare i treni è la richiesta di una persona che vive sulla Luna. Andrea. In questi giorni in cui si parla tanto dell'attentato al capo del governo e in cui tutti hanno detto la loro, ho notato il silenzio a mezzo stampa della signora Lario, mentre in passate occasioni, visto il ruolo che ricopriva, avrebbe fatto meglio a lavare i panni sporchi in famiglia. Forse la signora non ha considerato che ciò che è successo al suo quasi ex marito è ben più grave delle presunte o vere scappatelle con escort o aspiranti donne di spettacolo. Avrei molto apprezzato e avrei rivalutato senza dubbio la signora Lario Berlusconi se avesse almeno comunicato la sua solidarietà all'uomo con cui ha diviso buona parte della sua vita e dal quale ha avuto dei figli. È molto triste constatare che dopo anni di vita in comune non sia rimasto né affetto né solidarietà. Simona. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.